Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis, stiamo ripercorrendo da ieri sera le tappe di un tipico viaggio in aereo per come potrebbe avvenire più o meno tra una decina d'anni. E ne abbiamo parlato ieri e continuiamo a parlarne oggi con Francesco Violante. Buonasera Violante. Buonasera. Violante è l'amministratore delegato di SITA, società specializzata nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni informatiche e telecomunicazioni per l'industria del trasporto aereo. Dunque oggi continuiamo questo nostro viaggio che abbiamo cominciato ieri, raccontando di come cambierà la pianificazione del viaggio e la gestione dei bagagli. Oggi continuiamo da dove avevamo interrotto, è il momento di imbarcarsi. Violante, come avverrà questa procedura che prevede anzitutto il check-in, il momento più antipatico di tutti quando si viaggia in aereo? Eh sì, questo è vero, cioè le code di check-in sono quelle più lunghe, ma noi abbiamo detto ieri che è possibile ricevere sul proprio mobile la propria carta d'imbarco o in alternativa l'utilizzo delle tecnologie self-service negli aeroporti, tipo i chioschi, e già oggi il 70% dei passeggeri utilizza tecnologia self-service. Auto, biglietto te lo fai da solo e così via, benissimo. Ecco, poi l'altro punto critico è il controllo di sicurezza negli aeroporti, dove si perde molto tempo, e anche qui la tecnologia aiuterà sempre di più, in particolare la biometria, con il riconoscimento dell'iride o le impronte digitali. Sarà possibile automaticamente riconoscere le categorie dei viaggiatori, fare il confronto con i dati sul passaporto e consentire un accesso rapido. Questo è già possibile in alcuni posti nel mondo, per esempio il cosiddetto tunnel elettronico che consente questo è all'aeroporto di Kuala Lumpur dal 2011 e sarà installato in questi mesi in 9 aeroporti in Indonesia. Cioè, quindi uno entra in un tunnel, per capirsi, in cui adesso poi la biometria può essere del volto, può essere dell'iride, può essere di tutto il corpo, si possono valutare le impronte digitali, insomma sta di fatto che uno entra in questo tunnel e diciamo il computer fondamentalmente analizza tutta una serie di caratteristiche fisiche e riconosce che quella persona che ha magari la carta d'imbarco sul cellulare di un certo tipo è proprio quella persona lì. Senza soluzione di continuità la persona neanche si accorge o a malapena si accorge di queste verifiche? Sì, c'è un lettore del passaporto, c'è una riconciliazione dei dati del passaporto con i dati fisici che vengono acquisiti dai sistemi biometrici, le informazioni sul biglietto e sulla carta d'imbarco vengono, e quindi la persona riesce a passare velocemente attraverso. Ecco, senta, ma se uno è un sospetto... Intanto ci sono dei controlli fatti in maniera casuale, random, che consentono di verificare in maniera diversa i passeggeri, e poi ci sono 3 categorie, i frequent flyer, quindi quelli che viaggiano moltissimo e che sono quelli che passano velocemente perché ci sono tutte le informazioni già acquisite su di loro, i passeggeri diciamo che viaggiano con una certa regolarità, e poi quelli che viaggiano poco, dove non ci sono le informazioni, quindi questi richiedono un maggior livello di controllo. Ma mi chiedevo se questo tunnel smistasse su un binario morto i passeggeri sospetti, insomma. Senta, dunque, a questo punto ci siamo imbarcati con tutte queste meraviglie tecnologiche, saliamo in aereo e lì come cambia la vita durante il viaggio del passeggero? Questo è un momento affascinante, perché finora si è sempre pensato che non si può essere collegati tramite reti GSM o tramite reti Wi-Fi al di fuori dell'aereo, perché c'erano problemi di sicurezza. Ora questo tabù non esiste più, ci sono sistemi che proteggono in maniera specifica la sicurezza, non interferiscono con le apparecchiature di bordo, sì. E quindi il passeggero oggi può usare il proprio cellulare, il proprio telefonino, sia per effettuare telefonate, per inviare messaggi, SMS, ma anche per collegarsi alla rete internet tramite il collegamento alla rete dell'aereo. Questo significa che l'aereo è connesso a internet, tra l'altro cosa che può aprire tutta una serie, immagino, di opzioni, di possibilità legate anche alla navigazione aerea, eccetera, eccetera. E come si connette l'aereo a internet? Deve usare una connessione satellitare? Sì, okay. Una connessione satellitare, ma comunque quello che è importante è il fatto che è possibile, come diceva lei, aprire il mondo a infinite applicazioni. Le porto degli esempi. Sì. Per un passeggero che è in arrivo in un aeroporto e il proprio aereo è in ritardo e ha bisogno di cambiare il volo successivo, può fare il cambiamento del volo, della carta d'imbarco. Al volo e in volo, direi. Al volo e in volo. Terza parte, abbiamo poco tempo, dobbiamo chiudere. L'attesa in aeroporto. Immaginiamo che il nostro viaggiatore arrivi in aeroporto, debba prendere una coincidenza, deve aspettare 2 o 3 ore. Oggi si gira alla ricerca disperata di qualcosa da leggere o da bere o da mangiare. Cosa cambia in futuro? Cosa cambierà? Beh, anche qui ci sono delle cose interessanti. Intanto la connettività Wi-Fi è estesa in tutti gli aeroporti e quindi l'utente è sempre collegato tramite il proprio tablet o il proprio cellulare. È possibile utilizzare la realtà aumentata per sullo smartphone per avere informazioni, per esempio le direzioni verso il gate. Ecco, ricordiamoci che quando uno arriva in un grande aeroporto spesso bisogna prendere una coincidenza, spesso è complicatissimo, gli spostamenti a volte sono complessi, quindi lei dice la prima cosa che facciamo è diamo al viaggiatore tutte le informazioni sul suo smartphone per raggiungere il gate giusto dove c'è la coincidenza. Esattamente. E questo viene fatto attraverso una tecnologia che è quella che localizza il telefono in particolare, sì, e quindi consente di inviare informazioni o avvisi specifici dedicati alla persona che si trova in quel posto, in quel momento. In quel momento. Quindi, le informazioni sul cambio del gate, per esempio, o su un ritardo, oppure gli si dice quanto dista il gate dal punto in cui ti trovi, quanto è la coda al gate, quindi tu organizzi il tuo spostamento. Quanto ci metterai ad arrivarci, certo, esatto, certo. Ma è possibile anche gestire in maniera globale il flusso dei passeggeri, certo, attraverso queste tecnologie per pianificare bene spostamenti e così via. Tra l'altro alcune di queste cose esistono già, ricordiamo che l'uso della realtà aumentata per orientarsi in aeroporto. Sì, sì, nell'aeroporto di Copenaghen, ecco, è già lì realizzato, e la gestione dei flussi e l'ottimizzazione all'aeroporto di Tolosa, dove c'è una sperimentazione in corso che fa queste cose. Grazie Francesco Violante. Grazie a voi. Bene, noi ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì.